init music. Init for you. Init your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sandonà 102.2 e Radio Sherwood, senza dire nient'altro, Favotto. Eh sì, cala del silenzio su Radio Sherwood e sulle onde medie, cala signore e signori. Cala la palpebra, grandioso spot. Ma noi ci siamo comunque. Sì, anche noi... quando la gente è calante di palpebra e sta per addormentarsi, noi ci siamo comunque. Noi rimaniamo virtuali e virtuosi. E nel... vigili. Nel senso che Sherwood abbandona i compianti 97.8, noi continueremo a dire 97.8 random. Tutta questa puntata, secco che ve lo beccate. Ma una serie di volte, perché ormai sono quelle cose che ti entrano nella testa e non stacchi più. Un po' come nella SketchUp nella famosa estate 2004. Mettetevi a ballare cortesemente, soprattutto se siete in macchina. Insopportabili. Comunque, 97.8, una X sopra, invece no. Una V vicino a www.sherwood.it. Quindi, se vuoi, ti rifaccio l'introduzione del programma. Vai. È come se fosse partita la sigla. Radio Sandonà 102.2 in streaming su www.radiosherwood.it. Music for you, torna anche questa settimana. Buonasera a Gino Favotto. Buonasera Daniele Terzariol. Buonasera 97.8 ospiti questa sera. 978 persone ospiti. 97.8, nel senso che il 98esimo era in forse. Un po' a pezzettoni, un po' a spezzatino. Chi ci viene rappresentato queste 97 persone? Da un solo ospite, una sola entità che si paleserà telefonicamente Ben presto, stiamo parlando del nostro ospite molto virtuale ma anche molto molto reale nella musica. Scende dal Piancavallo. From Piancavallo! Jack Hyde. Federico, hai più conosciuto. Ce l'avremo in intervista telefonica a presentare il suo pezzo, The Anger Song. E viene estratto dal primo lavoro di Jack Hyde, un lavoro acustico che a noi è piaciuto moltissimo e che andrà a presentarci appunto Federico nel corso della puntata. Noi prima vi diamo un assaggino di quello che quattro mani unte possono regalare se messe insieme per un'ora di programmazione, e questa è Gateway. Eh sì, andiamo a sentirci la proposta della settimana come tutte le radio peggiori. La proposta della settimana, come ha detto Ben Favotto, cade su Gateway degli Yuk. Ma chi sono sti Yuk? Yuk, quello che faceva... Ti ricordi il dinosauro Denver? Si chiamava così? No, si chiamava Denver, essendo il dinosauro. Che domande fa? Però ogni tanto faceva Yuk. E tu, io pensavo già la buttassi... Ti ricordi gli Yuk? Quelli col bastone... O Lucky Luke. Yuk Perry, quello lì, Beverly Hills, 90210. Comunque, niente di tutto ciò fa parte della line-up degli Yuk, che è gente che viene da Londra e che si sta ascoltando, e sono anche girati i maroni. Perché li hai sfasato completamente, come dicevo, la lineup. Ci fanno parte invece un certo Max Bloom e anche un certo Daniel, bellissimo nome, d'altronde è mio, Blumberg. Fanno parte entrambi dei Caillou Dance Party. Scegliersi un nome normale da pronunciare radiofonicamente manco a pagarli oro. Noi presenteremo il singolo che è Gateway, il primo uscito dal 21 febbraio 2011, dall'unico album di debutto prodotto omonimo. Non si complicano le cose lì in casa Yuk, e quindi io direi che possiamo andarci ad ascoltare, no? Tra l'altro, come coordinate musicali vi diamo in generale i Sonic Youth, i Dinosaur Junior, e questo mi ricollega al dinosauro Denver. Vedi che tutto torna. E più in generale all'emo, quando aveva un senso di chiamarsi emo, quindi gli Husker Du, i Dinosaur Junior, non i Dari. E non ho altro da dire. Su Sherwood, www.sherwood.it .97.8 e Radio Sandonà 102.2. Questa è Gateway degli Yuk. 97.8 riposano in pace, quindi Sherwood.it 102.2 RSD, questo è Music for Youth e ora il beneamato Terzariol va a presentare l'ospite di questa sera. L'ospite di questa sera mi risponde all'anagrafe come Federico, ma nella realtà musicale come Jack Hyde, ed è in collegamento telefonico con noi. Ci sono. Ciao. Che bel ragazzo, anche se non t'ho mai visto. Classica voce calda e sensuale. Ci piace un sacco, sappilo, ma tu giri per caso come Bon Iver con i berrettini, un po' come i Fleet Foxes? I berrettini ci piacciono parecchio. Perché ho questa immagine di te che, cioè, purtroppo deformazione, ho visto il video di The Anger Song e mi sono costruito un prototipo di Federico. Ho capito, sempre col cappellino in testa. Ci ricorderesti molto belli di Drone Boy. Federico, io te lo confido qui, lui ti immagina che allevi foche. Che dormi in un capannotto come Bon Iver e poi mi produci un Forever For Emma Go, che sarà il tuo prossimo lavoro sotto altre spoglie, sotto altri titoli. No, però piuttosto parlaci del progetto Jack Hyde. Da dove mi nasce? Perché ti sei sentito di voler esporre tutto questo? Nasce perché io sono in un altro progetto che si chiama The Storylines, con il quale continuiamo a suonare. Abbiamo fatto dei concerti, siamo appena tornati da Germania. Parallelamente io continuavo a produrre con la chitarra acustica a casa e ho detto: questi pezzi bisogna chiuderli, facevano parte di un certo periodo, e quindi niente, ho provato a finirli e mi sono chiuso in studio ed è nato per un promo inizialmente, e da lì si è partiti, insomma, i pezzi c'erano, mi piacevano, e da lì abbiamo chiuso tutto il disco con anche gli altri ragazzi che fanno parte del progetto. È perché abbiamo visto, ci siamo documentati, che 5 tracce del tuo brand new capitolo, che è The Sleeper Sunday Grid, sono delle ex demo, chiamiamole così. Esatto, sì, perché pian pianino continuavo a accumulare pezzi, e quindi ho iniziato a fare un primo promo di 3, poi un altro di 5, e a quel punto c'era il disco pronto e l'abbiamo pubblicato. Disco che è in download gratuito dal tuo sito, dal quale diamo gli estremi, come quando ci sono i funerali, www.jackhyde.com. Questa scelta di mettercelo tutto in download gratis, da cosa ti nasce? Non saprei, abbiamo avuto dei contatti con anche delle etichette, però alla fine penso che la rete e le nuove tecnologie ti permettano, insomma, di fare un ottimo lavoro anche da solo, e quindi niente, era una scelta quasi ovvia. Non so, è stata una scelta. Una scelta comunque che funziona. Sì, infatti il pubblico ti premia. Se scrivo Jack Hyde in internet, se trova materiale, cioè c'è Kotika, mettiamola così. Se scrivo mio nome e mio cognome, al peggio vengono fuori i risultati degli esami che ho fatto 3 anni fa, e sono pure quelli del sangue, neanche quelli universitari. È stata una buona scelta e secondo me un'ottima scelta, anche perché è un sistema, cioè, non è una novità, insomma, molti altri gruppi, altri artisti più o meno noti utilizzano la rete e anche il free download per pubblicare le loro cose. Ho detto: ma perché no a quel punto? Perché no? Vogliamo essere da meno rispetto ai Radiohead? A questo punto tutto free. Poi non buttare anche tu un box da 48 euro se vogliamo l'edizione da toccare con le manine, perché potremmo arrivarti con dei badili sul piancavallo. Ma infatti quello non ci sarà. Se le fai pagare 48 dollari sterline, quello che era, potresti allegarci una di quelle figure in legno che hai messo sul video di The Anger Song. Hai visto? Ti piacciono? Ma mi piacciono un sacco. E vuoi parlarci un po' della produzione del video? È nato il video dall'incontro con Francesco Imperato, il regista. Siamo conosciuti qui a Milano e abbiamo deciso, insomma, di lavorare assieme. Aveva lui l'idea, insomma, di ricreare queste sagome, stare i boschi come ambientazione per il pezzo. E quindi niente, si è formato lui. Insomma, io del progetto video, insomma, tra virgolette, solo ho ereditato tutta la produzione e le idee, scelte artistiche, se ne è occupato appunto Francesco, appunto affidato pegname di fiducia, si è fatto fare a dimensione naturale le sagome. Ma me ne avanza una, che me ne metto in camera, nel caso ti do l'indirizzo, me la spedisci. Va bene. Sono figo, mi piacciono. Favotto, anche tu ne andresti ghiotto. Sì, io devo confessarti la mia ignoranza, non ho ancora visto il video. Non dovevi dirglielo. No, ma io glielo voglio dire, dei tre uno può non averlo visto. Due italiani su tre lo vedono, è tantissimo. In ogni caso è tantissimo. Hai visto che hai citato la montagna? Sì. Cioè, mi pare tu sia un po' influenzato anche dal dove vivi. Sì, ricordiamo che sei a Milano, comunque ti stiamo telefonando da Milano. Da Milano, hai capito? No, io sono qui a Milano da un anno e mezzo, però insomma per gli altri 20-23 anni li ho passati in montagna, insomma, a Piancavallo, che è vicino a Pordenone, il paese da dove vengo, e è stato fortemente influenzato dai posti, insomma, anche perché hanno un bel fatto. Quindi appunto in cameretta con la chitarra ho fatto i pezzi lì, e quindi voglia o no. Hai dato vita un po' un album un po' invernale, un po' dalle tinte autunnali. Sì, un po' con la sciarpa in lana intorno al collo, diciamo. I tuoi ascolti dove spaziano? Spaziano un po', dipende più dalla situazione, dal periodo, non lo so. Farei prima dirti cosa sto ascoltando adesso. Sì, va benissimo, bravo, perché così prendiamo appunti. Prendo appunti. No, per esempio adesso sono molto influenzato da Fortet, Madlib, che è hip hop, appunto, c'entra poco con le chitarre acustiche, ma mi piace molto gli ultimi lavori di Madlib. In generale l'hip hop quest'anno mi ha preso parecchio. Mos Def, Madlib, Prefuse. Ah, in Prefuse 73? Esatto. Se ne meritano tutte. Ho appena ascoltato anche l'ultimo di Iron and Wine. Piace, non lo so, io non l'ho sentito. Abbiamo passato Love Vigilance un sacco di tempo fa, sì. In rotazione. No, un gran bel disco. Insomma, spazio parecchio, diciamo. Anche Erykah Badu mi piace molto in questo periodo, che però è soul. Noi prendiamo appunti e nel caso mettiamo in programmazione. Nel frattempo è il turno di The Anger Song, che è la traccia che va a chiudere il tuo primo capitolo di debutto. Esatto. Porterai questo lavoro in giro, si spera? Sì, lo sto già portando in giro. Domani sono a Padova, e settimana prossima a Milano, poi a giugno sarò in Trentino per una data vicino a Trento. A Pergine? A Kless. Ecco, io ho fatto il nome perché ogni volta che mi dicono vicino a Trento penso a Pergine, mi viene in mente a Daniele Groff. Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Me lo ricordo. L'intramontabile, diciamo, Daniele Groff. Ma dov'è finito? Se qualcuno lo recuperi, per cortesia, riesumatelo. Se me lo trovi, salutamelo. Non sa chi va bene. Non so veramente chi sono. Devi sapere, tra l'altro, in un minuto di gossip, che Daniele Groff ci è stato riesumato in un nostro recente sabato sera in un karaoke. Cose veramente dell'altro mondo. Sì, cose che voi umani non potete neanche immaginare. Federico, io ti ringrazio. No, grazie a voi. Speriamo di risentirci presto, e se passi da queste parti facci un fischio. Sì, suonaci. Suonaci, noi siamo al secondo piano a San Donà, ci trovi qui. Penso che di San Donà sono i miei genitori, quindi insomma conosco. Ma stai bene scherzando? La... Su serio, un momento Raffaella Carrà. Ci fosse Castagna vivo o un o un momento Maria De Filippi, dovrebbero scattare degli abbraccioni. Ma com'è a San Donà? Ti ricordi pure la via, magari? No, è un paesino vicino, si chiama Passerella. Mitica. Una delle tante persone. Invece di Eraclea. Ma perché non mi hai detto questo prima? Che io ti faccio tutta l'intervista sulle frazioni di San Donà e te ne chiedevo una per una. Esatto, e c'è anche il piatto tipico di ogni frazione, sai, queste cose. Sai dove trovarci, dai. Perfetto. Federico, ti ringrazio ancora. Io adesso... Grazie mille. Lancio The Anger Song dal tuo nuovo album The Sleepers Sunday Grid sui 102.2 di Radio San Donà e in streaming su www.sherwood.it. Questo è Jack Hyde. I'm old, I'm old enough to understand if angels go with life, people who are dead. Strange not to feel, for the desire anymore won't make to come back today, won't make. for sure strange not to live on earth anymore. And it feels stranger to see you after all those years. Today I fear you're coming back for you. I'm old, I'm old enough to understand if angels go with life, people hold dead. Today you're coming back for me. And I don't understand, I don't understand what you want. After all those years. Rientrati in studio a Music for Youth, questa era The Anger Snow di Jack Hyde che abbiamo appena avuto in intervista telefonica. Se siete in podcast andate a recuperare il tutto. E se non siete in podcast andate in podcast. Che insomma, perché è un ottimo insulto. Prendete una direzione nella vita, soprattutto se ve la diamo noi, non può essere che buona. Esatto, sì, al massimo dove vi porta a un grosso cono di segnalazioni in una superstrada. Dall'altra parte cosa arriva? Di solito un Iveco. Quando va bene, uno Scania. Una banda in FM è la 102.2 Radio San Donà. Due indirizzi internet: jackhyde.com, dal quale potete scaricare The Anger Song, la traccia che abbiamo appena sentito, e il resto dell'album in download free gratuito, e sherwood.it, che è la nostra nuova base ipertecnologica alla quale trasmettiamo, perché sì, la banda FM ci ha salutato, i 97.8 se fanno benedì. Un duo terzariol favotto sempre più virtuale e sempre più votato al pop. Pop, molto pop, pure troppo. E infatti ci spostiamo nell'universo Gorillaz. Devi fare una scelta conseguente a quello che hai appena messo. C'è una canzone un po' acustica che ti ricorda la montagna, il tramontino e pipì pepè. No, tocca a Revolving Doors dei Gorillaz. No, noi mettiamo i Gorillaz. Allora, i Gorillaz sono usciti con questo ultimo lavoro. A noi quelli i Gorillaz piacciono e non c'è niente da fare. Il titolo porta un augurio che ci mandano tutti: The Fall. Esatto. Il nostro definitivo, la nostra caduta definitiva. Dopo i mercati finanziari di Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna. Famosi pigs, dovremmo essere dei maialini. Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna. E Spagna, come bravo, bravo, bravo. Vedo che li hai detti giusti per la seconda volta e una mia. E ci andiamo a sentirci i Gorillaz con Revolving Doors, che arriva dopo Plastic Beach, l'album successivo a Plastic Beach. Questo è il singolo Internos. No, Internos, cioè Pigs. Era è il download digitale, cioè volevo dire che era il singolo scelto per internet. È il singolo per gli internauti, dai, mettiamola così. Per gli internati in alternativa. O per gli internati come noi, potevate scegliere anche con Amarillo, condito Revolving Doors, condito da Amarillo, che è la traccia B-side che segue questa, quella che presenteremo stasera. Tra l'altro Plastic Beach aveva fatto un successo notevole, tra l'altro vantando collaborazioni non mica da poco. Io vorrei citare Lou Reed, per dire, sì, che canta, e Bruce Willis nel video di Stylo, vogliamo ricordarcelo. Revolving Doors dei Gorillaz, dal loro ultimo album recuperabile anche questo in digitale e solo in digitale, The Fall. Someone on the TV, a tapping low. scelta The Fall dei Gorillaz, questa era Revolving Doors. Siamo su Music for You, Radio Sandona 102.2, in streaming su sharewood.it. Il tempo dei contatti, Favotto. 0421 560993, lo dividete in coppie di due e mettete il tutto all'otto. Era il numero di telefono. Sì. Poi c'è uno 0421 560994, lo dividete a coppie e vi viene dato il numero di fax della radio, ma anche e soprattutto la targa della Rolls Royce di Daniele Terzarioli. O quella di William e Kate, che si sono sposati. Bravi. Novelli sposi, lattine attaccate alla targa per loro, 40 milioni di inglesi festanti, si vendono stoviglie con la faccia dei nuovi reali. Un sacco di stoviglie. Io voglio la mug, possibilmente, se c'è. Ma è una mug di un brutto. Deve essere veramente uno di quegli oggetti kitsch che trovi solo nelle grandi stazioni. Esatto. Andate a Vittoria, andate a Pimlico, a King's Cross, ad Arsenal. Ad Arsenal, c'è una grande stazione ad Arsenal? Sì, nel quartiere di Arsenal. Ah, ok, scusami, non sono pratico della toponomastica londinese. Ma neanche io, ma a quel punto compratela, fateci una foto, www.radiosandona.it, e da lì radio@radiosandona.it, scrivete nell'oggetto mug, noi saremo ben contenti di pubblicare il tutto su musicforyouth.wordpress.com, il nostro solito blog, altrimenti c'è il gruppo in Facebook Music for Youth On Air per aria, un po' come se io e Favotto avessimo voluto passare con l'elicottero sopra Westminster alle ore 11 di quel famoso sabato, ci avrebbero tirato giù con un missile terra-aria. Per aria ci saremmo stati per abbastanza poco. 10 secondi, tempo di salutare e forse presentare il nuovo pezzo. E poi arriva la RAF, tra l'altro la RAF dove il principe William ha fatto ben 3 anni più quasi altri 3, ma poi Kate gli ha detto: ascolta qua, basta con la RAF. L'ha anche piantato per 5 mesi. Guarda che ci vuole il coraggio. Tu pianti il principe d'Inghilterra. Novello re! Mica. Mi stava per partire un che cazzo. Ti è partito, stava per partire un porco e giù. Cioè, l'ha piantato per 5 mesi. Tu, signora nessuno, pianti per 5 mesi il re e lui torna. E stando al riassuntino cinematografico della cosa, pianti il novello re e come te la risolvi? Andando a fare canoa. Sono andata con i fratelli, quelli a Bagnale, lì che sono... e Pepinello, no, di Capua. Pensavo con quelli che hanno fatto causa poi a Zuckerberg per The Social Network, che ormai io i canoisti li individuo solo con quelli. Ah, io sono fermo a Pepinello di Capua che sprona gli Abagnale con un megafono. Comunque, tutte le ragazze che vanno a vedere i canoisti, sappi che vogliono solo divertirsi. Sì. E se te lo dicono i canoisti, te lo dicono pure gli Starfucker, che è il nuovo pezzo che andiamo a presentare adesso con Girls Just Want to Have Fun. È una cover della indimenticata Cyndi Lauper. E ce l'ha portata a Favotto. Sì, allora, gli Starfucker non credo abbiano bisogno di presentazioni. Beh, insomma, due. E anche se hanno bisogno di presentazioni, non ve le dico perché sono un gruppo enorme, enorme gli Starfucker. Intanto ti chiami Fottitore a Stella, così, come il cacciavite in qualche modo. Un po', esatto. Anche se io preferisco quelli lì, come si chiamano? Quelli piani. Quelli piatti. I piatti, esatto. Sarà che sono mancino, un po' più di fatica. Avevano anche cambiato nome. Hanno fatto a tempo a chiamarsi Pyramid o Pyramid con 2D. Pyramid. E adesso si chiamano Starfucker, ossia hanno tolto tutte le vocali di mezzo e si portano in turco sto nome qua. Prendere una decisione. Hanno cambiato una serie di membri della band. Credo non ci sia più nessuno della band originale, o forse uno. Mandiamogli una mail, ci documentiamo. Esatto, io potrei radio chiocciola. Potrei non dormire per questa cosa qua, finché non so la line-up degli Starfucker. Neanche Cyndi Lauper, secondo me, perché senti una cover così e o ti innamori o ti addolori. Dalla Ponyville Record, che li ha lanciati, ce ne andiamo a ascoltare la cover di Girl Just Wants to Have Fun di Cyndi Lauper. Yeah. Starfucker. Le ragazze vogliono solo divertirsi, fa voto, e non è che chiedono molto di più. E è strano che un gruppo che si chiama Starfucker parli di ragazze che vogliono divertirsi, tra l'altro. C'è qualche evidente limite strutturale. Esatto, sì, sotto sì. Le, come cavolo si chiamano, le patte degli Starfucker. E volevo darci il nome. Io pensavo a un qualcosa tipo impalcature. No, no, assolutamente no. No, no, patte. Le patte delle braghe, c'è qualche problema. Se queste vogliono divertirsi, gli Starfucker non rispondono. Cioè non è che si chiamano, non c'hanno nomi un po' più strani. C'è di mezzo patte comunque. Patte comunque. Scendiamo pacchi. A patti. Scendiamo ai pacchi. E i pacchi ce li porta Alexander. Alexander. Alexander, regista per Rough Trade. Innanzitutto, un grand'uomo. Me ne ha parlato un amico e mi ha detto: cercati Alexander in internet. Sì. E io cerco. Aspetta, che ti faccio divertire. Perché io ho cercato comunque e mi sono arrivate queste informazioni. In libera uscita, fa già ridere, dai due act più noti in cui è coinvolto. Tu dici: chissà che gran nomi. Gli act sono Edward Sharp e Magnetic Zeros e Aima Robot. Ma chi cazzo sono? Infatti, gli ospiti in studio fanno sì con la testa e dicono: noi li conosciamo. E solo loro, però, quindi un italiano su tre. A questo punto, tu digita Alexander e musica in Google. Ti viene fuori un DJ russo drum and bass. E chissà quanta qualità e bellezza nel suo corpo, alla testa e ai piedi. E infatti, no, ma è soprattutto anche. Ragioniamo sulla patta a quel punto. E poi. Sempre con il nome di DJ Alexander, c'è anche un DJ country americano. Questo qui invece di cognome fa Ebert. E quando avevo lanciato la ricerca in Google pensavo Ebete. Perché? Ebeter. Ebeter. Questo ragazzo che fa un cantautorato un po' lo-fi. Ma parlacene sì. Tu Favotto, che sei sicuramente più documentato del sottoscritto. Allora, un cantautorato su cantautorato lo-fi. Hai estremamente ragione. Lo fai, sì che lo fai. Lo fai, sì, lo fai. Cantautorato. Allora, mi fa pensare a certi The Vodka, ma non l'ultimo album, innanzitutto. Vabbè. Non ti offendi, vero? No. E poi, in generale, alla produzione più ad ampio raggio della Anti Records. Andiamo, sì, ci spostiamo negli Stati Uniti, però... Il suono è comunque in linea con quello che abbiamo imparato a conoscere di Rough Trade. Lo fai qualcosa di acustico, qualche venature 80s, secondo me, meritevole di un ascolto. Questo singolo, Truth, potete scaricarlo dal sito della Rough Trade. Uh-huh. Andatevi anche a vedere il rooster e recuperatevi la puntata che abbiamo fatto su Rough Trade Records, perché noi produciamo serate speciali etichette di una certa qualità. Sì, adesso siamo un pochino fermi con questa cosa, è una questione di patta probabilmente, ma la risolveremo al più presto. Il gruppo cosa il gruppo? Si chiama Alexander, no, no. È il cantante. L'album si il chiama solista Alexander, sì. E questa è Verità. E questa è Verità. Andiamocela a sentire sui 102.2 Radio Sandona e solo in streaming su www.sherwood.it. Trying to trick me into doing battle, calling out fake up, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cat, building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses, but your defenses, if you can't stand to feel the pain, then you are senseless, senseless, I've grown up some different kind of fighter, and when the darkness comes, let it inside you, in your darkness, it's shining. My darkness is shining. Seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world come from divine. Say you're my lover, say you're my home. Feel my chin back, slit my throat, take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets, all my enemies are turning into my teachers. Because light's blinding, no way dividing what's yours or mine when everything's shining. And your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in ourselves. Anche un po' di saluti a Neil Young a questo pezzo, no? Sì, esatto, e anche questa fischiettata finale che ti fa un po' il buono, il brutto e il cattivo. E con tanti saluti pure a Morricone, di conseguenza. Sì, anche a Sergio Leone, via. Un saluto anche a Sergio Leone, i saluti in radio non mancano mai, io saluto anche i salumi in questa radio. Neanche i salumi, soprattutto se sono due ossacolli come noi, che trasudano sotto delle belle lingue salmistrate o lesse, è lo stesso, le lingue che stanno da fuori come per gli aschi in estate, esatto. Che ricordati che sono sempre tristi, gli aschi in estate. C'è della tristezza nell'aschi. Volevate il titolo del pezzo? Ah sì, era Alexander con Truth, e questa è Music for Youth, se non ve ne siete accorti, ma presumo di sì, perché il livello è talmente basso che non possiamo essere noi. E se volete, Truth e Youth fanno rima. Assolutamente, rima baciata, ci siamo tutto. Messi pure d'accordo con Alexander, non ci siamo messi d'accordo con i Beastie Boys, con i titoli di Santogold, che infatti partoriscono un titolo, Don't Play the Game, But I Can Win. Altresì detto, ridamme mettecette no zioghe p. Sì, un po' opportunista come titolo. Loro stanno per lanciare, anzi hanno già lanciato la settimana precedente, il nuovo album. Eh sì. Hot Sauce Committee, Part 2. Un po' come Erika Badu, che ha splittato in due New American Part 1 e ha prodotto poco tempo fa il Part 2. Due album da ascoltare, secondo sì, me. Sì, Beastie Boys, che sono passati una serie di volte su queste frequenze, e Santogold no Santogold non è mai passata, no. Ha fatto tempo a fare un album da sola, ha fatto un album solista, lei votata al soul, se si può dire, infatti ha fatto un album solista. Vabbè, adesso mi do fuoco. Sparati, tu presenti, prego, l'album, vero? L'album lo potete scaricare da hotsaucecommittee.com, anzi è in streaming, poi ve lo dovete comprare nelle migliori prosciutterie d'Italia. Vi erano anche in omaggio dei taralli, se avete fame. Vi dicono lascio, voi dite sì. Assolutamente sì, quello che avanza portatecelo a noi. Nel frattempo ascoltatevi il nuovo singolo di Beastie Boys con Santogold, Don't Play the Game, But I Can Win. I got you right where I want. Mazza che svolta i Beastie Boys. Ma vero? Questa era Don't Play the Game that I Can Win con Santo Gold, non Santi Gold e non Santi Licheri, favoto, e non come Santa tu pensi. Gold. Esatto. Perché io continuo a scrivere delle email a Terzariol durante la settimana in cui Santo Gold viene chiamata in quattro modi diversi ogni per volta presentare la stessa identica canzone. Esatto. Comunque Music for Youth purtroppo per noi e fortunatamente per voi va in chiusura. Oh là. E con chi ti chiudiamo se non con un pezzo triste e struggente e che rileva tutta la depressione che aleggia in questi studi e nelle nostre menti. Sì, soprattutto nei fuori onda, in questa studio, in questa studio sì. Diciamo che sa da, non so, da pollo bruciato. Sa un po' da stantio. Sì, un po' a polvere sui mobili, quelle cose. Bisogna svoltare a volte, e possibilmente non contro un muro e non a destra, che c'è sempre il fosso. Esatto, oppure se sei dentro un ristorante c'è il bagno. Esatto, perché il cesso sta sempre in fondo a destra e te lo dice Gaber. Noi, infatti, dall'Italia andiamo verso west, cioè andiamo tendenzialmente verso sinistra. Sì. E dove ci trasferiamo? Non in bagno. No, in Canada. Noi andiamo spesso a finire lì. Canada che mi partorisce Faced, che mi partorisce i Broken Social Scene, the Borders of Canada. Proprio brutta gente da pochi soldi, no? E chi mi produce anche i Wilderness of Manitoba. Manitoba è una provincia, sì, regionina del Canada. Anche una marca di silicone, devo dire. Ma stai scherzando? Ma non è la Saratoga? Sì, quello. Però c'è anche il Manitoba. Non lo sapevo. Sentirsi ignoranti è sempre bello e si impara sempre qualcosa in più. I ragazzi mi producono un EP che si chiama Hymns of Love and Spirits e subito dopo buttano fuori quest'album When You Left the Fire, un affresco del Canada che ci piace. Da cui noi abbiamo tratto November, visto che siamo in maggio, in maggio pieno. Tra l'altro questa doveva inizialmente chiamarsi November the Second, quindi 2 novembre, ma poi l'idea è morta. L'idea è morta con loro e anche un po' con la stessa giornata che voleva dipingere. Ricordano anche loro, e qui chiudiamo la puntata perché abbiamo intervistato Jack Hyde, che a sua volta ricorda un po' Bon Iver e Fleet Foxes, eppure loro sono avvicinabili, sì, al circondario del folk, B-folk. B-folk soprattutto. Tri-folk. Tu non sei un B-folk, sei un trifolco, ricordatelo, Favotto. No, e comunque quindi per una volta possiamo avere un finale circolare pascoliano che tanto ci è caro. Quindi, ci piace un sacco. Sì, quindi noi adesso vi lasciamo mentre andiamo a cercare la nostra cavallina storna. Favotto, scusami, spegniti per cortesia, è il turno di Wilderness of Manitoba. Io vi rimando alla prossima puntata di Music for Youth in streaming su sharewood.it e in onde medie, quelle che ci piacciono tanto, Radio San Donà 102.2. E ora partirebbe un minuto di silenzio per i 97.8, fortunatamente sostituiti dalla musica in maniera magica magica ed elegante. Dai, guarda, adesso fa Manitoba. Ciao, alla prossima settimana. The dreamer in his She is waiting by the bay through the clearing. I await to find her face disappearing far across the burning. Frozen in October's sun comes November.